Avventurieri, i carovanieri impiegano solo 25 secondi per percorrere 500 metri. Voi ne impieghereste 100. La rincorsa non servirebbe, sono già troppo lontani.